Epilogue. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Mi sono accorto ieri, parlando di censura nel cinema, che esiste un problema molto sentito dal nostro pubblico, quindi ho deciso di tornare oggi a ragionare sul rapporto tra adolescenti e in generale un mondo che non sempre gli adulti riescono a percepire fino in fondo, che è quello delle relazioni attraverso un computer. Detto in termini molto semplificativo, ma in realtà è molto più complesso. Non so se vi ricordate, noi 3 anni fa, proprio a questa trasmissione, lanciammo in Italia l'idea di un fenomeno che non colpiva ancora direttamente il nostro paese, perlomeno non in maniera precipua, era un fenomeno che veniva dal Giappone. Era il fenomeno dei cosiddetti hikikomori. Era una parola che pochi hanno sentito pronunciare in Italia, e ci fu un grande allarme, e mi ricordo che il giorno dopo dovemmo replicare la trasmissione e continuare a parlare, perché c'erano molti genitori che, a fronte di questo fenomeno, che è una sindrome che colpisce soprattutto adolescenti o ragazzi a età molto giovane, ravvedevano i loro figli i sintomi. L'hikikomori è un ragazzo che a un certo punto della sua esistenza si isola dal mondo, o perlomeno si isola dal mondo sensibile, percepibile, concreto, il mondo che vivono i suoi genitori, i suoi compagni di scuola, i suoi amici, il mondo degli adulti. Ha un suo mondo in realtà, un suo mondo che è topograficamente circoscritto dalla sua camera da letto, quindi il luogo fisico che lui occupa, e occupa in maniera anche piuttosto invasiva, perché l'hikikomori inizia a passare la sua giornata in camera da letto, non esce più. La sua camera da letto si riempie, si ammassa di oggetti che comunque gli riportano emotivamente il mondo che lui vive, attraversa e nel quale è intriso quotidianamente, che è quello che conosce attraverso il computer, attraverso le relazioni a distanza, attraverso la navigazione, attraverso i videogiochi multiplayer, attraverso altri hikikomori o altri personaggi come lui e che vivono attaccati a un computer. E così l'hikikomori comincia pian piano a scandire la sua giornata, che è una giornata antitetica rispetto alla giornata quotidiana. L'hikikomori oscura le finestre perché di giorno non può vedere la luce, perché di giorno molto facilmente lui dorme, è assonnato, vive molte volte nei propri rifiuti perché non esce nemmeno per mangiare. Chi ha una famiglia che si occupa di lui lascia il pranzo davanti alla porta di casa, altri che vivono da soli, di età più avanzata, non proprio adolescenti, hanno un sistema di acquisto di cibo spazzatura attraverso takeaway, attraverso varie maniere, e si fanno portare tutto a casa. Insomma, la loro formula è quella di espandersi in un mondo in cui si sentono enormi, illimitati, pieni di qualità, come se fossero eroi di un videogioco, e pian piano appassire rispetto al mondo percepibile e concreto. Qua questo fenomeno, che sembrava interessare soltanto in Giappone, lo leggiamo su una pagina di Repubblica di ieri, interessa molto anche l'Italia. Questa è la sintesi, perché i primi centri di riabilitazione, di recupero del hikikomori, perché è una sindrome, in Giappone dopo 6 mesi che un ragazzo fa questa vita viene classificato come hikikomori e quindi inizia un'azione di tentativi di recupero, una sorta di anoressia sociale, una sorta di desiderio di fuga dal mondo concreto, di immersione totale in un mondo in cui si è privi di una fattispecie corporea, non si hanno più bisogni fisici, si hanno soltanto bisogni di espansione mentale attraverso la rete. Beh, i primi centri di recupero di ragazzi giapponesi sono proprio in Italia, e di questo oggi parleremo. Hikikomori in Giappone è una parola che spaventa e che vuole essere tenuta lontana, come una malattia incurabile che colpisce senza motivo e quando arriva contagia lentamente tutta la famiglia, rovinandone l'esistenza. Il termine fu coniato negli anni Ottanta in riferimento a un numero sempre crescente di giovani, i quali, per motivi spesso legati ad una forma di apatia scolastica, interrompevano le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano nella propria stanza, rimanendovi ininterrottamente per lunghi periodi. 800 24 00 24, quello che vorremmo fare stamattina, oltre che riparlare del fenomeno, capire a distanza di 3 anni quali sono le evoluzioni rispetto alle possibilità di recupero, di cura di questa patologia, perché di una patologia si tratta, non è semplicemente un ragazzo che sta molte ore davanti a un computer, che poi magari esce, vede i suoi amici, fa la sua vita normale. È una persona che a un certo punto diventa un recluso, diventa una persona murata viva nella sua camera da letto, una persona che non ha più contatti con il resto della sua famiglia, una persona sembra non avere più bisogni legati al proprio aspetto fisico, alla propria nutrizione, alla propria cura estetica, passa le giornate in questa sua postazione, in questo suo stargate mentale, attraverso lui attraversa il mondo fisico e entra in altri mondi, che frequentare i quali non considero assolutamente un indicatore di patologia, anzi è una maniera per conoscere le potenzialità di espansione che dà la contemporaneità a un essere umano. Io ho lungamente parlato, favoleggiato, allucinato sulle protesi emozionali, su questi strumenti che noi abbiamo a disposizione per supplire al nostro desiderio di potenziamento relazionale. Ma l'hikikomori invece è schiavo. L'hikikomori è una persona che fisicamente appassisce. Noi abbiamo bisogno di nutrimento, abbiamo bisogno di sole, abbiamo bisogno di socialità, abbiamo bisogno di incontri fisici concreti, oltre a questo training, questo training quotidiano con le nostre protesi emozionali. L'hikikomori se lo nega e l'hikikomori per questo rischia di morire. 800 24 00 24, avete un hikikomori in casa? Ne avete sentito parlare? Avete sospetto che un vostro figlio o voi stesso vi avviate verso questa soglia della dissoluzione fisica? Per codificare parametri nella definizione dello stato di hikikomori fu indicato un periodo di ritiro minimo di 6 mesi, ma fu sempre più evidente che questo lasso di tempo si protraeva spesso anche per molti anni. I dati ufficiali riportano che gli adolescenti che in Giappone praticano hikikomori sono attualmente più di 1 milione, vale a dire il 2% dei giovani e l'1% dell'intera popolazione, di cui oltre il 90% di sesso maschile, di estrazione sociale solitamente medio-alta, vale a dire il padre laureato con posizione dirigenziale e la madre anch'essa laureata, quasi sempre casalinga. Dottor Antonio Piotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il dottor Piotti è uno psicoterapeuta, autore della prefazione del libro Hikikomori, adolescenti in volontaria reclusione, il libro di Carla Ricci, un testo che noi trattammo al tempo, ne parlammo per la prima volta, è stato recentemente ristampato per le edizioni Franco Angeli. Il dottor Piotti poi collabora con il dottor Sciarmeca dell'Istituto Minotauro di Milano, che è appunto uno dei centri che per primi si è sensibilizzato su questo problema. Cosa è cambiato in 3 anni? Come si è evoluto il fenomeno, soprattutto in Italia? Come stiamo avvertendo i sintomi di qualcosa che ci viene dal Giappone? Dal Giappone ci viene un'infinità di suggestioni, dal cosplayer ai videogiochi, ai manga, alle anime, a tutta una cultura fantastica. Ma ci arriva anche l'hikikomori. Sì, siamo in un mondo globalizzato, ovviamente si globalizzano anche i sintomi, no? In certe circostanze. Per dire delle differenze, perché forse è importante anche proprio segnalare la situazione in Italia rispetto al Giappone. Noi in Italia, secondo me, per quello che noi abbiamo visto in questi 3 anni, ci assistiamo a una sindrome analoga, anche se forse con dei tratti meno feroci, meno gravi. Per esempio l'isolamento degli hikikomori italiani non è quasi mai totale. Si assiste a una alternanza giorno-notte, no? Al fatto che dormono di giorno e invece si svegliano di notte, ma anche lì più attenuata, non costante. Molti, in generale, per esempio, è un fatto che questi ragazzi accettino, per esempio, di mangiare con i genitori e non si chiudano proprio sempre nella loro stanza. Hanno magari amicizie molto marginali che a volte conservano, per esempio possono accettare di incontrare un amico una volta ogni tanto. Ecco, quindi diciamo che i contorni di questa situazione, almeno come li vedo io, perché... Beh, anche perché è molto diversa l'organizzazione della società, della famiglia, esatto, rispetto al Giappone. Esatto, è radicalmente differente, infatti. Esatto, per esempio mi risulta, avevo fatto l'introduzione al libro della Ricci, che stato anche per me, come dire, proprio una rivelazione. Comunque, in ogni caso, mi risulta che in Giappone, per esempio, le famiglie che hanno un figlio hikikomori se ne vergognino, e quindi socialmente sia una cosa da nascondere. Ecco, questo non avviene in Italia, per esempio. Le famiglie tendono ad avvertire questa situazione come un problema e quindi a chiedere aiuto il più possibile. Semmai sono poche le risposte che vengono date, ma c'è un atteggiamento diverso. Ma ancora, diciamo, in Italia, diciamo, la comunità scientifica ha preso coscienza di questa particolare patologia o questo stato, o viene classificato generalmente come una patologia depressiva, un ragazzo che ha dei problemi? No, credo che ormai ci sia una consapevolezza, la comunità scientifica internazionale credo ne abbia preso consapevolezza. Adesso dovrebbe uscire il DSM, manuale di psichiatria versione quinta, e lì ci sarà definita una sindrome da ritiro sociale acuto. Siccome il DSM vale in tutto il mondo, allora tutto il mondo riconoscerà l'esistenza di questa sindrome. Senta, questo istituto, il Minotauro a Milano, mi ricordo 3 anni fa ne parlammo, poi cominciano a telefonare mamme disperate che avevano il problema in casa, non sapevano nemmeno che esistesse classificato con quel nome. Di cosa si sta occupando in questo momento? In che misura ha presente il problema nella sua forma concreta, non teorica? Il Minotauro si occupa di adolescenti in generale, di disturbi adolescenziali a tutti i livelli. Nello specifico, per quanto riguarda questa sindrome da reclusione, per questo comportamento, noi stiamo lavorando con le famiglie, perché abbiamo scoperto che la cosa migliore è lavorare prima di tutto con le famiglie. La grande particolarità di questa sindrome è che non si riesce a incontrare subito i ragazzi, perché sono reclusi. E quindi sono pochi quelli che accettano spontaneamente di venire in terapia. Perciò la grossa difficoltà da superare è quella di riuscire a entrare in contatto con questi ragazzi. Mi posso fermare un attimo, dottor Piotto, perché abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato. Cristian, buongiorno. Pronto, buongiorno Nicoletti, sono Cristian. Lei può portare elementi importanti alla nostra riflessione per esperienza personale e familiare. Personale sì, perché sono uno dei pochi esperti di culture pop, tra l'altro ci siamo visti per quella cosa bella della Pixar di cui parlavo, dello zootropo fatto allo studio. È uno dei 100 che mi seguiva nell'avventura. Sì, le avevo anche dato delle slide sulla differenza che ha Disney, che ha formato tanti bambini qua, e invece le anime giapponesi. Questo è un elemento importante. Lei è sposato con una signora giapponese? Esatto, io ho una famiglia che è metà giapponese, metà italiana, per cui ho, diciamo, amici, parenti. Mi è capitato di ospitare anche una volta qua in Italia una ragazza hikikomori. E tra l'altro il fenomeno hikikomori, che è da anni invece che se ne parla in Giappone, non è poi così nascosto, anche perché ormai, grazie appunto attraverso la rete dentro la quale loro vivono, essendo dei prosumer, cioè producono ciò che consumano, quindi anche loro producono elementi, materiale in rete che spesso esce come romanzi, c'è un'infinità di cose anche bellissime, perché sono storie di hikikomori, disegni di hikikomori, anime di hikikomori, foto delle camere degli hikikomori, che sono dei caos fantastici. Se uno non vedesse l'aspetto patologico, si crea una subcultura nell'ambito hikikomori. Però in realtà questi ragazzi hanno una sofferenza reale, una patologia che non è che li faccia star bene. Allora, alcuni ce l'hanno e li ho conosciuti, è vero, ma così come era stato il fenomeno otaku, non so se lo ricorda. Sì, gli otaku, sì, ecco. Non li chiamavamo feticisti, ma è una cultura molto diversa la nostra. Non possiamo paragonare gli otaku ai nostri maniaci che si comprano le mutande in cellofanate, ecco. Esatto. Però il fenomeno otaku che faceva passare giorni e giorni in questa zona di Harajuku, dove ci sono palazzi e palazzi, magari uno solo dedicato a un fumetto particolare, l'altro solo dedicato, e stavano giorni e giorni lì. Quindi ecco, ricordo, sono dei ragazzi che vivono nel culto dei personaggi, dei manga, delle anime giapponesi, che è un fenomeno molto sentito da noi. Delle manifestazioni si fanno qui a Roma di cosplayer, io ho visto migliaia e migliaia di ragazzi di tutti gli stati sociali, di tutte le possibili città, periferie, centri storici, venire qui vestiti e mascherati, e anzi interpretare personaggi che la maggior parte dei genitori nemmeno conosce, di cui nemmeno conosce l'esistenza. Ci fermiamo solo un secondo, Cristian, rimani in ascolto perché mi serve la tua testimonianza. Abbiamo al telefono, proprio da Tokyo, la dottoressa Carla Ricci. Carla Ricci, buongiorno. Buongiorno a lei, scusate la voce ma sono influenzata. Anche perché poi il fuso orario diciamo non viene incontro. No, qui c'è una neve pazzesca a Tokyo oggi. Allora ricordo, Carla Ricci intanto è ricercatrice, psicologa, è laureata in ricercatrice in psicologia clinica e antropologia e scrittrice, e ha scritto il libro di cui abbiamo citato all'inizio della trasmissione, Hikikomori, adolescenti in volontaria reclusione. Lei anticipò questo fenomeno, ne parlò per prima almeno nel nostro paese. Adesso che si trova a Tokyo, ci può raccontare proprio dal Giappone l'evoluzione del fenomeno? Sì, volentieri. Diciamo che rispetto all'introduzione che avete fatto anche prima in sottofondo, è molto i dati sono molto modificati in questi 3 anni, nel senso che gli hikikomori adesso sono un numero molto più numeroso, perché sono circa 1,5 milioni, e poi sono di età molto molto superiore a quello che erano 3 anni fa. Quindi sono cresciuti e sono rimasti i hikikomori. Sì, ecco, questo è interessante perché siccome c'è una percentuale altissima di hikikomori dai 35 anni ai 47 anni, questo vuol dire che una parte di loro è entrata in hikikomori di recente perché ha perso il posto di lavoro e quindi qui il culto del lavoro, la cultura del lavoro ha un'altra dimensione rispetto alla nostra, ma vuol dire anche che moltissimi hikikomori non sono mai usciti, quelli che cominciarono i hikikomori 10-20 anni fa e sono tuttora hikikomori. Questo è, secondo me, una cosa abbastanza inquietante. Quindi si sono geneticamente adattati alla loro dimensione astratta, non vivono più la vita concreta, ormai sono, diciamo, transumati, sono passati dallo Stargate che dicevo all'inizio completamente, vivono soltanto nel loro mondo fatto di personaggi della fantasia, di giochi fatti a distanza con altri loro compagni e di navigazione in rete. Secondo, è esattissimo, ma io volevo sottolineare il fatto che in realtà se questo avviene è perché queste persone sono totalmente alienate, nel senso che quello che viene offerto, cioè, tutto è diventato praticamente una grande fuga, no? Una grande fuga dalla realtà che comunque è abbastanza complesso vivere qui, specialmente se non riesci a trovare il passo giusto. No, ma è interessante quello che ha detto lei, professoressa, che mentre prima lo avevamo considerato 3 anni fa come soltanto un fenomeno di problema nell'ambito familiare, del rapporto familiare, c'era di mezzo la famiglia, adesso lei ci sta dicendo che quello che noi in Italia chiamiamo il bamboccione, quello che rimane in famiglia perché non ha, diciamo, desiderio, voglia, acume, intraprendenza per muoversi in autonomia, in Giappone il Giappone c'ha questa cosa di fantastico che previene sempre alcuni fenomeni che avvengono da noi. Una volta tornato in casa, questo, non è che passerà le giornate come Alberto Sordi al tempo dei vitelloni, andarsene in giro per bar. Si chiuderà in camera, si metterà davanti a un computer e passerà le sue giornate magari nei social network. Questa profezia ha senso secondo lei? Anche perché a Tokyo non è così divertente andare in giro. In Italia è divertente, in Italia c'è comunque un clima anche adesso assolutamente diverso. Sì, ma senza soldi in tasca andare in giro ha poco senso. A Tokyo non è assolutamente così. E poi il discorso della vergogna di cui abbiamo accennato prima, io ritengo invece che qui sia ancora fondamentale, perché proprio la vergogna di avere ad esempio un figlio che si ritira, cioè è vero che loro poi fra di loro sono in internet, sono assolutamente contattati, ma fuori questo non si vede, cioè nessuno dice che quella famiglia ha hikikomori, che io ho un figlio in hikikomori, non so come fare, questo non viene detto, perché il fatto di non essere produttivo, e questo ancora di più del passato, è più vergognoso che avere un figlio che magari ha compiuto un reato, chissà cosa, capito? Poi un figlio assolutamente, sempre... assolutamente. Guardi, dottoressa, ci fermiamo un istante, vorrei mandare una scheda di come era vista la situazione 3 anni fa, così vediamo subito la differenza. Primo caso, giovane, 24 anni. Già dall'adolescenza aveva dimostrato di essere timido, problematico e nervoso. Alle scuole superiori una compagna di classe si lamentò del suo cattivo odore. Come risultato, diventò paranoico rispetto all'odore del suo corpo e cominciò ad avere difficoltà con la scuola, che dopo un anno abbandonò. Dopodiché, seppur con molte difficoltà interpersonali, si cimentò in molti lavori che regolarmente lasciava dopo un mese. Cominciò così gradualmente a ritirarsi dalle attività sociali. Trascorreva tutto il tempo nella sua stanza. Smise di aver paura del suo odore, ma si sviluppò in lui la patologia di misofobia e divenne evidente la sua compulsione a lavarsi. Questo stato di ritiro sociale durò per oltre 4 anni. Anche questa è un'altra, non la giudichiamo una mania, ma un altro tipo di sensibilità molto proprio della civilizzazione, della contemporaneità giapponese, la paura degli odori. Esistono dei gabinetti di importazione dal Giappone, che l'ho visti, sono fantastici, che rappresentano e sintetizzano la paura degli odori corporei. Come ci si siede, improvvisamente partono vapori profumati, musiche celestiali, irrorazioni intime, in modo che l'uomo sia stoppato in una sua emissione odorosa. Dottor Antonio Piotti, ricordo, esperto in hikikomori, rispetto a questa scheda, rispetto alle differenze fra un adolescente alle nostre latitudini e un adolescente giapponese, quali sono i punti che collimano e i punti di differenza? Appunto, stavamo dicendo, no? A me sembra intanto che qui da noi la questione rimanga tendenzialmente adolescenziale e che quindi siano, come dire, più limitati i casi di giovani adulti che fanno questa vita. Però guardi, professore, se mi permette. Naturalmente sì. È successo che, come dicevate, il Giappone anticipi i tempi, sperando di no, però insomma a me sembra questo, no? Che per quel che vedo io, come dire, ci sia questa problematica relativa anche alle nuove tecnologie, a nuovi modelli di vita. In Italia credo che si sviluppi come una questione che riguarda alcuni soggetti in una maniera meno vasta che in Giappone, meno grave, certamente significativa. Quando c'è questa problematica è vero, l'esperienza in questi 3 anni ci mostra che non sono casi facili. C'è qualche numero, è possibile dare qualche numero sull'incidenza di questa patologia in Italia, che è un fenomeno sociale? No, io non riesco a dare numeri in questo senso, perché il tipo di lavoro che facciamo è con soggetti che ci chiamano e quindi da quel punto di vista lì noi non facciamo un'indagine sociale. Attualmente credo che a Minotauro abbiamo circa una ventina di ragazzi che presentano problematiche analoghe a queste. 4 o 5 molto più gravi, e li stiamo seguendo. La questione, conferma quello che dice la Ricci, cioè non è facile, cioè, e soprattutto per esempio avviene che quando questi ragazzi fanno esperienze per esempio molto lontano da casa, è come se si liberassero da tutta la loro situazione, se si trasferiscono momentaneamente in un'altra città. Ma infatti l'articolo di Repubblica di ieri dice che proprio in Toscana c'è un centro d'eccellenza dove nella campagna toscana mandano ragazzi giapponesi come a disintossicarsi dalla loro società, dai loro obblighi, dalle loro liturgie professionali, familiari, sociali, e pare che il metodo che stanno applicando qui in Italia funzioni per i ragazzi giapponesi. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. 800 24 00 24, oggi l'argomento è: i giovani hikikomori alle nostre latitudini ne esistono? Melog, la realtà condivisa. Io ho una figlia che ha 4 anni, che è in questa situazione. Ho passato di tutto e di più e non so come venirne fuori. Io sono medico, nonché mamma di un 17enne. Ci sono dei ragazzi che non hanno nella fase così acuta una sintomatologia proprio classica, però cominciano sicuramente a ridurre le frequentazioni con gli amici, comunicano solo via chat o via webcam, solo messaggi telefonici, riducono al minimo i giorni di frequentazione scolastica, trovano tantissime scuse, hanno un rendimento scolastico che comincia a scadere nonostante la loro capacità intellettiva. Stiamo ritornando sul fenomeno di Hikikomori, un fenomeno che viene dal Giappone, un fenomeno di cui parlammo 3 anni fa, abbiamo visto che in 3 anni si sta evolvendo anche questo, gli aspetti legati all'età, legati alla condizione sociale degli Hikikomori giapponesi. Quello che non interessa sapere è quanto questa profezia sociale, che di solito ha sempre, il Giappone è sempre stato abbastanza faro, perché? Perché contamina fortemente, l'immaginario dei nostri ragazzi è prettamente influenzato dall'immaginario giapponese, quindi loro crescono come noi siamo cresciuti. Con Pippo, Topolino e Pluto, crescono con dei personaggi che appartengono a un tipo di civiltà, di sensibilità, di cultura, di visione del mondo che è quella propria del Giappone, che è diversa dalla nostra, è interessante, è molto stimolante, ma produce anche degli effetti di cui stiamo parlando. Bisogna capire e definire, per quanto possibile anticipare, se la parte negativa di questi effetti in qualche maniera può essere prevenuta anche nelle nostre città, nelle nostre famiglie. Abbiamo al telefono da Tokyo la dottoressa Carla Ricci, che ricordo che è un'esperta del fenomeno Hikikomori, ha scritto un libro, Adolescenti in volontaria reclusione, che per Franco Angeli è ristampato proprio in questi giorni, e è ricercatrice in psicologia clinica e antropologia, è un'antropologa e una scrittrice. Dottoressa Carla Ricci, quello che forse dovremmo maggiormente specificare è che il taglio per affrontare questo problema è un taglio legato a un fenomeno sociale, non è che in questo momento dobbiamo individuare una nuova patologia, una nuova branca della neuropsichiatria dedicata agli Hikikomori. Ma certo no. Non è assolutamente... Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ah sì, la sento. Come lei ha appunto appena detto, non si tratta assolutamente di una nuova categoria di malattia psichica o psichiatrica. È un malessere che ha molte radici, molte concause, e sono io, secondo il mio punto di vista, secondo quello che io posso vedere, che ho potuto vedere in questi anni, e agli Hikikomori che ho incontrato, che tra l'altro lei prima ha accennato qualcosa a Firenze, io non ho letto l'articolo. Sì, è su Repubblica di ieri. C'è un centro di Firenze dove vengono ragazzi giapponesi, si chiama New Start, esatto, nasce a metà degli anni 90. È interessante perché nel mio secondo libro, che è uscito poi un anno fa, io porto esperienze di giovani Hikikomori giapponesi. Fra queste c'è anche l'esperienza della Rental Sister, che è la sorella in affitto, sì, che è nata in Giappone come idea giapponese, perché è nata lì, ma l'ispirazione è venuta proprio in questo centro italiano, in Toscana, presso il quale l'ideatore, diciamo, giapponese, è venuto casualmente in Italia, ha visitato questa struttura e da lì ha preso spunto per aprire in Giappone questa struttura presso le quali lavorano le rental onisan, cioè le sorelle in affitto. Sì, sarebbe come dire, diciamo, delle educatrici, ma con un forte portato, devono essere motivate, che sono delle ragazze che vanno e suppliscono a quella parte di famiglia che ormai gli Hikikomori non conosce più come tale, quindi è un'amica, una sorella, è una compagna di scuola che non si vuole più avere, che ricostruisce lentamente un contatto umano. Sa che cos'è innanzitutto? È una persona senza ruoli, perché in Giappone tutti hanno un ruolo e tutti devono rispettare il proprio ruolo, quindi io credo che l'Hikikomori sia stanco di queste ristrettezze anche psicologiche che vengono, perché in Giappone è fortissimo questo concetto. Io penso che per esempio questa rental sister sia semplicemente una persona senza ruoli a cui lui può in qualche modo aprire un discorso, così se lo vuole fare lo fa, se non lo fa non senza lo che fa, sia stabilito se necessariamente fare, fa, ecco, una qualsiasi gerarchia e né un qualsiasi legame o ricatto di tipo affettivo. Sentiamo Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e alla dottoressa. Una curiosità, continuo a sentirvi parlare di giovani, ma avete registrato mai casi in soggetti adulti? Perché In famiglia noi abbiamo un cugino che ha 54 anni, ma si attaglia perfettamente alla descrizione. Ha appena detto la dottoressa che in Giappone il fenomeno è evoluto negli ultimi 3 anni. Ormai il hikikomori non è più soltanto un adolescente, ma un adulto che non è più accettato, ha perso un ruolo nel mondo del lavoro e diventa hikikomori. Le chiedo scusa, non ho sentito la traduzione sì, sì. dall'inizio. No, lei conferma quello che stiamo dicendo. Che effettivamente la dinamica è stata proprio quella. Il mio cugino è entrato e uscito più volte dal mondo del lavoro, finché l'ultima volta si è sostanzialmente arreso e poi ha iniziato a intraprendere appunto questo percorso. Non è un soggetto, diciamo, 2.0, per cui non ha la tecnologia internet, però lui si affida alla musica, vive in un mondo, ecco. Sì, però non vorrei generalizzare. La caratteristica fondamentale, radicale, fisiologico-genetica acquisita degli hikikomori è che è collegato in rete. Se suo cugino non è collegato in rete è un altro tipo di atteggiamento. Si chiuderà per sentire la musica, una persona non vuole vedere persone. Però gli hikikomori è figlio proprio del web 2.0, se no non avrebbe senso parlarne questa mattina. Chiara. Buongiorno Nicoletti, io ho ritrovato, sono cresciuta con Golem, quindi l'ho ritrovato purtroppo solo quest'anno su Radio 24. Pensi, sono 7 anni quasi che ci sto. Lo so, purtroppo io... Pensi cosa si è persa, non le basterà una vita per il rimpianto di ciò che si è perso. Però trova tutto in rete se vuole. Va bene, infatti ho visto, lo farò. Diventi hikikomori riascoltando le vecchie puntate di Melog. Assolutamente sì, anche perché sono in gravidanza, quindi... Non c'è momento migliore. Senta, io le porto la testimonianza di mio fratello che oramai ha 28 anni, però il problema è cominciato appunto nell'età dell'adolescenza con frequenti abbandoni alla scuola, cioè seghe a scuola, poi ha cominciato l'università che ha abbandonato, aveva fortissime, ottime capacità di illustratore e disegnatore di fumetti, infatti interessato appunto ai manga, ai fumetti, ai cartoni animati, soprattutto giapponesi, eccetera, ha avuto anche l'opportunità di pubblicare dei libri con un editore inglese. Aveva la possibilità di trasferirsi a Londra, ma non ce l'ha fatta a fare il salto. E cosa fa adesso? E adesso sta a casa, si trascina tutta la mattina, diciamo per lo più vive come appunto vede vecchie, tra computer e vecchie puntate di tutto, tra cartoni, telefilm, eccetera. Notte, si sveglia quindi in orari dove la famiglia è già, ci sono ancora mio fratello e i miei genitori in famiglia, quindi sono già andati a lavorare e praticamente, salvo un suo interesse per fortuna abbastanza forte per gli animali e l'ambiente, diciamo che lui passa la sua vita così. E quindi quanti anni ha suo fratello? Scusi. Adesso ha 28 anni. Si fermi un attimo, Chiara. Dottoressa Carla Ricci, abbiamo un primo esempio di hikikomori di nuova generazione nel racconto di Chiara? Sì, secondo me ci siamo, anche se sì, perché in realtà lui ha cercato, ha cercato di andare, di seguire i suoi sogni, le sue ambizioni, non ce l'ha fatta e si è ritirato, in parole molto succinte, che è un po' quello che succede anche in Giappone, in dimensioni molto diverse. Però a me viene un'altra cosa in mente, cioè una cosa che sto pensando da diversi mesi. E insomma è anche il lavoro che sto portando a compimento con Armando Editore, cioè, non è che queste persone non hanno più, non hanno la hanno perso la passione della vita, cioè il senso della vita, il significato della vita, che comunque è un problema che riguarda molti di noi, cioè, è un cioè secondo me l'hikikomori non è da vedere soltanto come un fatto così che succede qua e là, forse in Italia, in Giappone, forse in altri paesi, è comunque qualcosa che ci deve far riflettere su quella, sulla situazione che riguarda il mondo nostro. Ma potrebbero essere delle avanguardie di una futura vita di tutti noi. Sì, secondo me c'è proprio è una vita così mistificata la nostra, così consumistica, che c'è qualcuno che proprio non ce la fa perché ha un rigetto, senza neppure capire, che non è che lui si renda conto di questa cosa, però ha un rigetto. Però vorrei dire una cosa, dottoressa, non vorrei far passare il hikikomori, per quello che ne so io e conosco io, come una persona che vive nell'abbrutimento e nella piattezza. Come diceva il nostro primo ascoltatore, che è un esperto di subculture, chiamiamo questo termine, che ci fa capire, il hikikomori è una persona che conosce perfettamente l'uso di tutti i software di fotoritocco, è un grande creativo, una persona che disegna appunto come il fratello della nostra amica, una persona che sa fotografare, una persona che conosce tutte le possibilità di uso creativo delle applicazioni, dei software, e su questo gioca, che inventa e costruisce i suoi mondi fantastici attraverso i videogiochi. Lui la sua creatività non la esprime più verso il mondo concreto, ma è fortemente costruttivo nel suo mondo. Non è che c'è possibilità di incanalare questa sua attitudine, questo suo talento, e magari farlo uscire da un isolamento fisico che per lui potrebbe essere soltanto nocivo? Ci fermiamo un istante, poi vediamo se la dottoressa Ricci sa rispondere a questa mia domanda. Melog, la realtà condivisa. Non esce mai dalla sua stanza, vive come un clochard, non si lava, dorme. Noi ci siamo rivolti a parecchi specialisti. Ci hanno risposto che il problema va rimandato al giudice dei minori. Non è maggiorenne, ma questa situazione dura da 2 anni. Busso alla porta, lui apre lo spiraglio, gli do il piatto, poi i piatti si accumulano, i piatti sporchi, aspetto che si addormenti, lui preferibilmente sta alzato di notte e dorme di giorno, raccolgo la poca immondizia che riesco a raccogliere, perché se si sveglia ha delle reazioni violente. Non esce mai, per lui ha una stanza con un bagno privato. 800240024, mi scrive un ascoltatore, tutti su Wikipedia a cercare il termine hikikomori. Sì, è un termine poco conosciuto nel nostro paese, ma è un termine che corrisponde comunque a un atteggiamento generale. Mi suggerisce un'altra ascoltatrice che conosce bene il problema, è una sorta di autismo sociale a cui le emozioni sono filtrate da uno schermo. Non trovo nulla di male nello schermo che filtra la realtà. Oggi le realtà noi le percepiamo attraverso schermi di qualunque tipo, di qualunque dimensione, di qualunque fattispecie, però il lato negativo è che queste persone marciscono fisicamente, persone hanno emozioni soltanto mediate, sono persone che non, penso che non abbiano una vita relazionale concreta, non abbiano una vita sessuale con altri partner, penso che tutto si consumi in quell'angolo di cameretta, in realtà è una porta aperta verso mondi fantastici, ma mondi vissuti soltanto in maniera incorporea. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito il programma e ho un figlio di 20 anni che è compiuto a gennaio e volevo sapere che cosa io posso fare di nascosto da lui, diciamo, per non fargli capire niente. Cosa fa suo figlio? Adesso ha lasciato la scuola da un paio d'anni. Ma quanti anni ha? 20 anni ha compiuto. Quindi ha terminato la scuola dell'obbligo, poi ha smesso. No, ha lasciato a metà, diciamo, perché ha avuto dei problemi, troppo chiuso, silenzioso. Come passa la giornata? Perché essere silenzioso è già... Adesso, sì, è silenzioso, non è di tante parole, sì, però no. Il mio problema è questo qua, me lo vedo troppo chiuso, troppo silenzioso, se gli faccio una domanda lui non mi risponde. Vabbè, qua non c'è niente di male, uno ha diritto di non rispondere a 18 anni al padre se fa domande, sì, ma come passa la giornata? Perché per capire se parliamo di hikikomori, che è il tema di oggi, deve dirmi come passa la giornata suo figlio. E niente, si sta in stanza al computer. Tutto il giorno? Diciamo tutto il giorno, sì. Si alzerebbe per andare a fare, diciamo, a mangiare, oppure... E ha lavorato con un falegname, diciamo, si è adattato bene con il falegname, solamente che niente, non si è sbloccato, è rimasto così come silenzioso, taciturno e niente. Ma una vita relazionale, una fidanzata, degli amici? Sì, ha avuto una fidanzatina, solo che è durato poco. Come... Ma adesso è la sera esce suo figlio? Esce soltanto il sabato. Vabbè, tanto... solo il sabato esce, riuscire. Il problema è, siccome ha 20 anni, se continua così, dove io guardi, non sono un medico, non faccio analisi. Nel suo caso suggerirei di farlo andare fuori casa suo figlio, se fosse possibile, vedere senza starlo a osservare né fare nulla di nascosto. Per fare qualcosa di nascosto, un figlio che ormai è già maggiorenne, serve a poco. Tenti questa drastica soluzione di mandarlo a vivere da solo, ci provi almeno, poi vediamo. Però non credo che si parli di hikikomori. Il hikikomori non è un gioco, non è che esce qualche volta. Il hikikomori si blinda, si cementifica, non esce più da camera sua. Roberto. Pronto, buongiorno. Sì. Salve, io tentavo di capire il significato di questa parola e poi mentre ascoltavo la vostra trasmissione ho trovato tutti i riferimenti che riguardano l'atteggiamento di mia figlia, che ha circa 23 anni e che è, diciamo, in un passaggio molto difficile della sua vita, ha lasciato la scuola più volte, ovviamente non trova lavoro e passa le sue giornate anche fino a notte fonda. Perché ovviamente non trova lavoro? Perché in questo momento, non so lei, ma nella mia città, che è Firenze, il lavoro, se non c'hai un diploma e anche se ce l'hai, non è facilissimo da trovare. Io so che nel campo degli educatori e degli assistenti per ragazzi con handicap ci sarebbe una richiesta fortissima. Non riesco a capire, ci sono delle richieste fortissime e le famiglie sono disposte a spendere soldi, però stranamente è un lavoro che non fa nessuno. Scusi, è venuto in mente così. Visto stiamo parlando... hai ragione, io stesso faccio pochissimo volontariato, però mi rendo conto. Gente paga perché il lavoro va pagato, mica uno sì, può ma pretendere. Ci sono persone meno adatte a farlo perché magari non hanno, diciamo, gli strumenti psicologici per affrontare. Sì, ma si possono anche fare le pulizie, ci sono tante cose che si possono fare piuttosto che stare a casa. Questo è vero, io ho fatto il barista e il camerino. Sì, ma non è questo, cioè, più che una persona sana, 23 anni, dica sto a casa che non trovo lavoro, qualcosa a fare lo trova, non trovo il lavoro qualificante, gratificante, esatto. E questo lo so, però intanto si comincia. Io non è che voglio fare, io ho fatto il pompista alle pompe di benzina per tanti anni durante l'università, non è che me ne vergogno, mi divertivo anche un sacco, non è che voglio fare la vittima, ma... lo zero, vedo tante persone che vengono nel nostro paese e trovano lavoro perché intende qualcuno lo fa. Non per giustificare, però non è un hikikomori sua figlia, non c'entra nulla. Tranquilla, Patrick. Pronto? Sì. Tutto ciò che ho sentito dire sui hikikomori praticamente calza perfettamente a mio figlio. L'unica cosa, anche se da un punto di vista diciamo linguistico, non si adatta al fatto che non è in rete, perché io praticamente non ho mai voluto fare la connessione, avendo sentito appunto il problema. E allora non è un hikikomori? Sì. Però praticamente blindato in camera, ha degli interessi culturali superiori, diciamo, magari i suoi coetanei, risultati disastrosi a scuola, abbandonato la scuola, rimasto praticamente dei mesi chiuso in camera, usciva di notte, si nutriva di nascosto in cucina, poi ritornava dentro, non lo vedevamo. Ma sicuro che non è connesso alla rete suo figlio, che non abbia una connessione in rete? Non ho voluto perché praticamente avendo degli interessi culturali l'unica cosa. Ma ha un computer suo figlio? Com'è? Ha un computer suo figlio? Sì, ha un computer, lui insomma ci passa parecchio tempo. Ma ci passa parecchio tempo, oggi non è plausibile avere un computer, è connesso in rete, lei non lo sa, si attaccherà alla wireless del suo vicino di casa, ma suo figlio stia tranquillo che sta in rete. Secondo me, no, io abito in un posto molto isolato, non ci arrivano. In qualche cose, maniera, non posso pensare che un ragazzo stia ore davanti a un computer se non connesso in rete, cosa fa se no? Non lo so, comunque... Stia tranquillo, guardi, si fidi, avrà una chiavetta, avrà qualcosa, si collega alla rete, è impossibile che non lo faccia. Ma comunque il problema è, dicevo, questa predisposizione a questo tipo di vita, cioè secondo me il problema... non è ovviamente la rete la causa che porta, il hikikomori sì, non è la causa, è la via di fuga per cui si abbandona il mondo concreto. Fermiamoci un attimo, dottoressa Callaricci da Tokyo, vorrei da lei un commento a tutte le telefonate che ha sentito, che ha ascoltato, che rivelano un tipico atteggiamento di pressione familiare sui ragazzi, il padre che vuol fare qualcosa di nascosto, il padre che pensa che il figlio che sta ora davanti a un computer chiuso in camera non sia connesso in rete. E la domanda l'avevo fatto prima, la creatività dell'hikikomori, perché visto da un altro punto di vista, non patologico, è una persona che avrebbe un grande potenziale da esprimere e non trova interlocutori giusti né nella famiglia né nei compagni di scuola. Ma le dico questo, innanzitutto è vero che in Giappone almeno il 30% di giovani non ha computer, questo lo voglio evidenziare, cioè di hikikomori non è necessariamente identificato con uno che tutto il giorno sta sul computer. Ah, questo mi rivela una cosa che non sospettavo, pensavo che invece fosse legato alla vita online di hikikomori. Ma certo è legato, però c'è una parte, io questo l'ho potuto approfondire in maniera abbastanza precisa perché ho conosciuto molti terapeuti loro mi confermano che un 30% possiamo dire, possiamo sommariamente dire un 30%, non ha niente. E quello che le volevo aggiungere a questo, lei ha detto una cosa molto giusta, per esempio il fatto che attraverso la se uno sente questo stimolo creativo verso per esempio i fumetti, manga, oppure certamente esprimersi nel giusto contesto attraverso... Io direi dottoressa Ricci, visto che la sigla sta portando via, l'argomento merita ancora un approfondimento. Se lei ci ridarà la sua attenzione e il suo tempo, richiameremo gli ascoltatori che hanno chiamato e sono rimasti insoddisfatti e ritorneremo sul fatto.